722 Zabaione. Rossi d'uovo numero 3, zucchero in polvere grammi 30, vino di Cipro, di Marsala o di Madera, decilitri 1,5, pari a 9 cucchiaiate circa. Doppia dose potrà bastare per 8 persone. Se lo desiderate più spiritoso, aggiungete una cucchiaiata di rum. Anche un cucchiaino di cannella in polvere non ci sta male. Lavorate prima con un mestolo i rossi d'uovo con lo zucchero, finché siano divenuti quasi bianchi. Aggiungete il liquido, mescolate, ponetelo sopra un fuoco ardente, frullandolo continuamente e guardandovi dal farlo bollire, perché impazzirebbe. Levatelo appena comincia ad alzare. Meglio, io credo, sia il servirsi della cioccolatiera. Siroppi. I siroppi di frutta acidule sciolti nell'acqua fresca o gelata sono bibite piacevoli e refrigeranti, molto opportune negli estivi ardori, ma è bene farne uso dopo compiuta la digestione, perché essendo alquanto pesanti allo stomaco, per molto zucchero che contengono, facilmente la disturbano.